Eccoci qua, questa sera vi andiamo a presentare un evento che sta andando in corso già da ieri sera, si chiama WebTech e continuerà ancora fino a domani notte. È un esperimento messo in atto da diversi sound system, diverse etichette indipendenti, diverse tribe e stanno praticamente da ieri in diversi posti d'Europa e concentrati nelle abitazioni di alcuni dei partecipanti. Stanno mandando avanti un DJ set, un live set che da ieri mattina andrà avanti appunto fino a domani sera. Intanto inizio a mettervi un po' di musica, anche se non è la migliore per i nostri generi. E per chi vuole saperne di più, vi rimando all'indirizzo webtech con la k.live23.org, dove potrete scegliere quale sound system ascoltare, da quale paese d'Europa ascoltare il live set. Vi troverete poi proiettati in una pagina in cui avrete sia lo streaming audio in ascolto, sia una telecamera sul DJ che sta suonando, e a fianco avrete anche una chat in cui poter comunicare con le persone che stanno suonando. E quindi per questa sera e per tutta la notte vi lasceremo in compagnia del WebTech, ci risentiamo più avanti con Pump Up the Volume, vi daremo qualche notizia più avanti sulle persone che suoneranno questi giorni e intanto godetevi la musica qui da Pump Up the Volume, qui da Radio Pirata 38 e ecco il WebTech, vi lascio. Thank you. giorno il vostro cervello ricomincerà a funzionare. Rischia fino a 4 anni di reclusione e fino a 15.500 euro di multa. Dire no alla pirateria e anche dire no alla I'm gonna go to the bathroom. We'll be right back. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. desaparecidos. Cuando se presentaron las primeras imágenes, ayer en la mañana de las detenciones que hizo la policía, se apreciaba claramente cómo los policías pateaban y golpeaban a los detenidos que ya estaban reducidos. En la noche ya estaba todo editado, ya nomás aparecían los policías golpeados. ¿Dónde quedaron esas imágenes? ¿Dónde están los desaparecidos? Get through. We'll be right back. E qui per questa sera da Pump Up the Volume è tutto, vi lasciamo fino a domani notte con questo esperimento interessante del WebTech 2. Vi ricordiamo, se volete saperne di più, di andare a visitare il sito webtech.live23.org. Sì. Come dicevamo prima, è un esperimento portato avanti da diversi sound system ed etichette indipendenti di tutta Europa. È da ieri mattina che stanno trasmettendo DJ set, live set e quant'altro, inframmezzato da interventi radiofonici e interviste sempre dallo streaming. Potete appunto raggiungere il sito e scegliere la sezione relativa al nostro paese oppure ad altre nazioni d'Europa di provenienza dei vari sound system, e potete poi selezionare i diversi live che sono disponibili. Alla vostra destra avrete poi una chat dove poter parlare con il DJ che si sta esibendo in quel momento, e avrete anche il video per vedere quello che fa sulla console mentre suona. E con questo vi ricordo che per ascoltare Radio Pirata 38 è sufficiente andare sul blog radiopirata38.noblogs.org. In alto a destra avete i link per ascoltare la radio. E con questo vi diamo appuntamento al prossimo sabato dalle 9 alle 10 con Pump Up the Volume. Vi ricordo che per tutto il resto del tempo, fino a domani sera, continuerete ad ascoltare questo esperimento sonoro chiamato WebTech 2. E quindi appuntamento a sabato prossimo con Pump Up the Volume. Dai, alla prossima. Ah, per questa sera, per chi non lo sapesse o per chi volesse andare in giro, ci sono una serie di appuntamenti. C'è una mostra fotografica al Forte, ci sta una serata di musica elettronica a Pirateria e c'è anche una festa nei dintorni di Albano. Dopo il corteo contro l'inceneritore, c'è una festa sia per far calare un po' lo stress di questa vita piena di nocività, e sia per stare comunque assieme dopo una giornata di lotta. Buonanotte a tutti e a tutti, e buon proseguimento con Radio Pirata 38 e con lo streaming di WebTech 2.